Grazie per l'introduzione. Allora, ringrazio anche i presenti. E, dico solo due parole su questa iniziativa che riteniamo essere molto importante e copartecipata da più soggetti. Quello che vedete, il simbolo non è di UniBZ, ma la B sta per laboratorio economico, perché abbiamo creato questa nuova struttura che fa proprio educazione finanziaria nelle scuole, che collabora con Sparkasse, in questo caso con Banca d'Italia. Chiaramente abbiamo anche istituito un concorso per avvicinare di più i giovani. Abbiamo un problema da questo punto di vista, che è quello della scarsa consapevolezza da parte di una parte della popolazione italiana riguardo all'indebitamento, comunque alla gestione del proprio budget, anche nei giovani. Questo è un problema, perché molti giovani, dicevo proprio prima al dottor Morellato, che si vanno a indebitare per andare in vacanza, per esempio. Questa è una cosa un po' particolare, ne ho parlato anche con i miei studenti, e quindi abbiamo cercato di portare, tramite la storia, loro saranno futuri insegnanti, almeno i miei, e quindi abbiamo cercato di mettere all'interno anche l'educazione finanziaria, come prevedono adesso le linee guida ministeriali. Chiaramente queste iniziative aiutano, infatti pro futuro spero che anche venga qualche giovane, perché il problema c'è. È un po' particolare nel nostro paese, perché storicamente noi siamo molto bravi a risparmiare. Per dare qualche dato, abbiamo 9.000 miliardi di patrimonio privato, quindi insomma vuol dire che gli italiani, da questo punto di vista, e non solo i super ricchi. Però negli ultimi 15 anni c'è stata una polarizzazione un po' particolare, e come avete visto anche sugli organi di stampa. Quindi in questo preciso incontro di stasera parliamo proprio del denaro, e lo faremo da un punto di vista storico con il professore. Lui vi spiegherà un attimo anche l'excursus, come si è arrivati anche alla situazione moderna. Si parlerà anche di moneta e crediti, e ovviamente la moneta spesso nella storia è servita agli stati per pagare gli eserciti. Pensiamo a Roma, che ha fondato proprio la sua potenza sulla moneta e su uno stato che potesse garantire questa moneta. Concetti che sembrano chiari, che erano chiari, ma che nella società di oggi stanno un attimo evaporando, ed è interessante anche vedere come la moneta influenzi anche l'economia internazionale. L'opera degli ultimi due mesi in geoeconomia degli Stati Uniti l'avete vista, dal Venezuela fino all'Iran. Gli interessi economici sono molto forti. Poi è entrata la Groenlandia nel dibattito, che quasi nessuno conosceva, e lì è sempre perché si muovono interessi di tipo economico, che sono lontani magari da quella che è la normale educazione finanziaria, ma non più di tanto, perché se non si conoscono i fatti mondiali, non si mettono in incrocio con l'economia, diventa difficile poi essere più consapevoli. Adesso, detto questo, ti lascio volentieri la parola, sì, in modo che tu possa fare questo excursus molto interessante. Prego. Grazie. Allora, sono state create delle aspettative sbagliate, forse, da Marco Pugliese, che è stato molto gentile. Quelle che vi spiegheranno qualcosa di veramente utile sono quelli che parleranno la prossima volta, no? Che sono l'avvocato Maines, il dottor Morellato, che sono quelli che praticamente risolvono problemi, no? Io quello che posso fare in questa combinazione, il mio mestiere, che è quello dello storico economico, e quindi cercare di raccontarvi storicamente come si sono evolute alcune delle categorie che utilizzeremo, no, in questo ciclo di incontri, cioè la moneta e il credito. E trovo che questa sia un'iniziativa importante, questa collaborazione, no, tra competenze diverse, perché rientra in questa questione, che è una questione che viene dibattuta da molto tempo, non solo in Italia, ma anche altrove, che è quella dell'educazione finanziaria, che è un vero problema legato alla dimensione della cittadinanza, in realtà, no, e della libertà individuale, perché noi tutti a scuola abbiamo studiato la perifrastica passiva. Molti di noi sanno fare un integrale, o magari sapevano fare un integrale, no, qualche tempo fa, ma la differenza tra un mutuo a tasso fisso e a tasso variabile, cosa implica, cosa comporta, beh, questa è una cosa che forse, a meno che non ci siamo sbattuti contro, no, non lo sappiamo. Ed è un aspetto che tutti quanti ci troviamo ad affrontare prima o poi nella nostra vita, forse con più frequenza rispetto a un integrale. Ecco, allora, ragionando su questa cosa, io vorrei partire con alcuni concetti fondamentali. Poi, se dico qualcosa che voi non capite, interrompetemi, per favore, chiedetemi, io sono ben felice di darvi un chiarimento. Allora, la prima cosa è la moneta. Che cosa serve? Cosa servono le monete? Qual è la funzione della moneta? La moneta ha tante funzioni diverse, in realtà. E questo spiega anche perché è una categoria complessa da trattare, no? Perché può avere funzioni differenti. La prima cosa è la moneta è un mezzo di scambio, di pagamento, qualcosa che utilizziamo se noi vogliamo andare a comprare qualcosa o che noi vogliamo ricevere se vogliamo vendere qualcosa. È una cosa banale questa, è un'idea che abbiamo tutti, però storicamente non è così banale. Perché? Perché la moneta è stata veramente uno strumento che ha agevolato moltissimo l'interazione fra i soggetti. Perché una volta come si facevano gli scambi? Qual era il modo per scambiare? Io ero un contadino che produceva grano, volevo andare a comprarmi una zappa perché mi serviva per il mio campo, e allora cosa potevo offrire al fabbro che faceva la zappa? Potevo offrirgli un sacco di grano, no? E si faceva il baratto. Baratto, tipica forma di scambio. Tra l'altro non dobbiamo pensare che sia una cosa che fosse presente soltanto nella preistoria. Quando la moneta crolla e non vale più, si ritorna a forme di baratto. Durante la Seconda Guerra Mondiale è successo frequentemente questa cosa in molte realtà, no? Quando la moneta si svaluta fortissimamente, quando c'è l'iperinflazione, si torna a forme di baratto. Ora, la moneta è molto più efficiente rispetto al baratto, perché se io ho il mio sacco di grano, devo trovare qualcuno che voglia il sacco di grano e che abbia effettivamente la cosa che a me serve. No? Se non trovo questa persona, la cosa diventa un po' complicata. Invece la moneta è un mezzo di scambio universale che mi consente di amplificare gli scambi, e questo è sicuramente un aspetto assolutamente vantaggioso. Poi c'è la seconda dimensione della moneta che è importante, che è quella della riserva di valore. Una moneta incorpora in sé il valore, e questo ovviamente è uno strumento che mi consente magari di mettere da parte delle risorse per poterlo utilizzare in un momento in cui ho bisogno. E qui ovviamente c'è tutta legata a tutta la questione della stabilità del valore della moneta nel tempo, che è importante, no? La questione dell'inflazione, il ruolo delle banche centrali nel garantire la stabilità, sono tutti aspetti che hanno a che fare col fatto che la stabilità della moneta dà sicurezza, crea un contesto in cui le persone possono fare i loro calcoli, no? E per questo motivo che Trump è un disastro, perché Trump è imprevedibile, no? E crea una situazione in cui è difficile fare dei calcoli dal punto di vista economico, dal punto di vista della politica, ha veramente scompigliato le carte. E poi è la misura del valore, no? È lo strumento che noi utilizziamo per assegnare valore a qualunque cosa. E questo ci aiuta a orientarci un po', no? nelle scelte che facciamo, e questo spiega appunto perché l'inflazione è un problema, perché l'inflazione continua a cambiare il valore delle merci, ci rende difficile fare delle previsioni, no? Prevedere quanto varrà il mio stipendio, con cosa potrò comprare in futuro, se vale la pena fare un investimento o no. È per questo che bisogna tenerla sotto controllo. È uno strumento economico estremamente importante, ma è anche uno strumento che ha una grande rilevanza politica. Lo diceva già il professor Pugliese prima, la moneta viene emanata dagli stati e viene utilizzata dagli stati anche per i propri scopi. E quindi accanto a questa connotazione economica c'è anche una connotazione di potere molto chiara, molto evidente, che è legata alla moneta. Oggi abbiamo questa cosa del Bitcoin, no? Bitcoin, sapete, questa moneta virtuale che gira, che è molto interessante dal punto di vista teorico, molto difficile da immaginare dal punto di vista funzionale come strumento per tutti, perché è totalmente slegata da un'autorità che garantisce per il funzionamento di questa moneta. E questa è una cosa che crea qualche problema, no? Nel recepire questo nuovo tipo di valuta. Allora, quando nasce la moneta come la concepiamo noi? In realtà non è antichissima. Le prime monete cominciano a apparire in Asia Minore, siamo in Turchia, tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. E sono, questa è una delle prime monete, lo statere, in elettro, in una lega di argento e oro, che in quella zona si trovava. C'era un fiume Patolo che portava questi minerali, che consentiva appunto di accedere facilmente a queste risorse. Se ci pensate, VII secolo, insomma, non è, no, tantissimo tempo fa, tutto sommato sulla scala della storia. Però è interessante che avvenga proprio in quella fase lì, perché è un momento in cui nell'area del Mediterraneo, tra il Mediterraneo e l'area della Mesopotamia e l'area dell'attuale Iran, la Persia, c'è un aumento della circolazione delle merci, degli scambi, che richiede appunto un mezzo di pagamento. Ecco che questo comincia a essere uno strumento che consente di fare queste cose e dà anche un altro vantaggio a quelli che lo coniano, consente di pagare i mercenari, che è un'altra delle cose importanti che interessano ai governi in questa fase. Quindi vedete, queste prime monete sono monete che riportano questo simbolo del leone, che è un simbolo utilizzato, in alcune c'è un leone che azzanna un cervo, e poi però poco dopo, tra il V e il IV secolo, compare una delle caratteristiche delle monete, anche quando dicevamo prima che la moneta è una dimensione del potere, no? Il fatto che la moneta riporti la rappresentazione del sovrano. Allora, il sovrano in questo caso è un satrapo che si chiamava Tissaferne, che stava lì in Asia Minore, che fa stampare la propria faccia sulla moneta. Cosa significa questo? Significa che garantisce lui il valore di quella moneta lì, e questo è l'aspetto tecnico, se vogliamo, no? Il fatto che il sovrano ci metta la faccia vuol dire che garantisce il valore della moneta. Ma l'altro aspetto è che la moneta diventa anche uno strumento di costruzione dell'immagine del sovrano. La moneta circola, passa nelle mani di tutti, e quindi la faccia del sovrano diventa qualcosa di noto a tutti quanti e associato anche a, appunto, uno strumento che ha valore. E poi da qui la storia della moneta parte e va avanti. E oltre alle monete, però, nel tempo le monete, sapete, circolano e hanno valore per il valore intrinseco che hanno, cioè per il fatto che contengono dei metalli preziosi che hanno un valore stabilito, fisso, oro e argento. E quindi queste monete potevano essere utilizzate indipendentemente da dove fossero coniate, perché io potevo utilizzare una livra francese, potevo utilizzare un fiorino austriaco, potevo utilizzare un pezzo da otto spagnolo. Se sapevo qual era il peso contenuto, non c'erano problemi di cambio, questo poteva girare, si poteva utilizzare liberamente. È un grande vantaggio, no, che avevano queste monete a valore intrinseco. Il problema è che le monete d'oro e d'argento sono pesanti da portare in giro. Quando si deve fare una transazione grossa è un problema. E se io sono un mercante che devo fare un lungo viaggio e portarmi dietro una cassetta di monete su percorsi magari infestati dai briganti, dove non sono proprio sicuro di quello che possa succedere, beh, insomma, è un po' un rischio. Ecco allora che cominciano ad esserci degli strumenti che aiutano a evitare di dover girare con chili di oro e d'argento. E uno di questi strumenti che oggi utilizziamo tutti, anzi ormai siamo passati alla moneta elettronica, però che abbiamo utilizzato fino all'altro giorno, sono le banconote. Banconote che non hanno nessun valore intrinseco, sono dei pezzi di carta, però sono garantite da un'autorità che mi dice quella banconota lì ha quel determinato valore. E le prime banconote arrivano in Europa tra il 6 e il 700, no? 1600, 1700. In Cina invece si usavano già molto prima, i cinesi sono arrivati molto prima a utilizzarle, le banconote. Tra l'altro anche la Cina ha avuto il vantaggio della tecnologia della carta che ha sviluppato prima dell'Europa, mentre aveva qualche problemino invece con i metalli preziosi. E c'è questo passaggio poco noto ma molto interessante del Milione di Marco Polo, dove Marco Polo racconta che a Pechino arriva a contatto con queste prime banconote, queste forme. Lui era un mercante e quindi ovviamente era interessato a queste cose. E qui non si utilizzava ancora la carta, come racconta lui, ma si utilizzava la pellicola interna della cornice del gelso, che era la pianta che veniva utilizzata per alimentare i bachi da seta, e quindi c'era in Cina, c'era anche in Veneto, quindi la conosceva Marco Polo, per stamparci sopra l'indicazione del valore della moneta, no? E dice lui e cogliono la buccia sottile che tra la buccia grossa e il legno dentro, e quella buccia fa fare carte come di bambagia, no? E sono tutte nere perché erano scure. Quando queste carte sono fatte così, egli ne fa delle piccole che valgono una medaglia di tornesegli piccoli. Tornesegli erano un'unità di monetaria che veniva utilizzata a Firenze. L'altra vale un tornesello, l'altra vale un grosso, eccetera, eccetera. Quindi ci sono banconote per valori differenti. E poi dice, tutte queste carte sono suggellate al suggello del grande Sire. Lui ci mette il proprio timbro. E gli fa fare tutti i pagamenti e spendere per tutte le province. E chi si rifiuta viene condannato a morte. Chi si rifiuta ad accettare la banconota viene condannato a morte, così era sicuro che le cose andassero come voleva lui. E quando qualcuno si rompe, guastasi alcune di queste carte, perché il problema è ovviamente le carte sono fragili, no? Si rompono. Oggi se abbiamo una banconota fusta, una banconota consumata, sappiamo che possiamo andare a cambiarla, ce la cambio, Banca d'Italia le ritira, no? Quando sono in queste condizioni, e quello dice sì, lui le ritira, però chiede un 3%. 3% di commissione. Beh, i cinesi sono sempre stati bravi su queste cose. Ecco, allora la moneta, come vedete, no? Moneta, banconota, ha una sua storia. Il credito invece è molto più antico della moneta. Il credito è quella realtà nella quale io ho bisogno di utilizzare determinate risorse in un momento in cui non dispongo della capacità economica di acquistarle queste risorse. Questo può essere perché ho un bisogno dal punto di vista che mi serve per il soddisfacimento dei miei bisogni elementari, mangiare per esempio, ma può servirmi anche per comprare un mezzo di investimento, no? Per comprare qualcosa che mi darà un reddito nel futuro. Allora, questo è un problema che da sempre ha riguardato le attività umane. Pensate alle attività agricole, no? Le attività agricole, io per avere un determinato prodotto devo anticipare il lavoro, devo anticipare le sementi, devo anticipare tutta una serie di spese che potrò ripagare poi nel momento del raccolto. Quindi c'è questa differenza temporale tra il momento in cui creo ricchezza e il momento in cui io devo fare l'investimento per poterla creare, questa ricchezza. Ecco allora che troviamo dei contratti di credito già nel terzo millennio avanti Cristo. Dove siamo? Siamo nella mezzaluna fertile, che è il luogo dove nasce la civiltà come la concepiamo noi, la realtà dove per prima si è sviluppata un'agricoltura stanziale, dove sono nate le prime città, dove si è sviluppata la scrittura, e qui troviamo anche le tavolette incise famose con la scrittura cuneiforme. Ecco, se pensate di queste tavolette che sono state trovate, circa l'80% riguarda contratti, transazioni commerciali, tasse, eccetera. Era quelle le cose che valeva la pena tenere da parte. E in questo caso qua, questa è una tavoletta che è di proprietà della Banca d'Italia, tra l'altro. La Banca d'Italia ha un museo, che è il museo, il MUDEM, che vedete sotto, il Museo della Moneta, che sta cercando di mettere in piedi, non l'ha ancora aperto, però dovrebbe aprire fra poco. E qui c'è scritto appunto la storia di questo Aradmu, che concede un prestito in orzo a Arshiach con l'indicazione dell'interesse al momento della restituzione. Abbiamo tutte gli aspetti tipici di un contratto di oggi, no? C'è chi presta, c'è chi prende, quanto costa, quando scade, qual è l'oggetto del prestito. Insomma, vedete, è qualcosa che risponde a un bisogno che c'era 3.000 anni fa, e che, cioè nel 3.000 avanti Cristo, che c'è ancora oggi. Prego. Le cambiali sono qualcosa di analogo, ma non esattamente la stessa cosa. Però, poi lo vedremo alla fine, in realtà, nel caso specifico di Bolzano, che è un caso particolare nella storia del commercio internazionale in età moderna, le cambiali vengono usate esattamente con la funzione di prestito commerciale. Ma lo vedremo poi alla fine, poi ne parliamo dopo. Allora, il credito è uno strumento fondamentale, e più crescono gli scambi, più si diffonde l'economia di mercato, no? Che richiede questa interazione fra soggetti diversi, più la disponibilità di denaro, la gestione corretta del denaro diventa importante. E un personaggio che ha scritto di questa cosa è questo signore che vedete qui, che è Benjamin Franklin. No, lo conosciamo, personaggio storico importante, gli viene anche assegnata l'invenzione del parafulmine, insomma. E ha il privilegio di essere uno dei pochi che non sono presidenti ad essere su una banconota, tra l'altro anche una banconota a $100, non è poca roba, no? E quindi, ecco, questa immagine è un'immagine che è stata segnata anche per il fatto che lui ha scritto delle cose sulla moneta. Questi sono i consigli ad un giovane mercante del 1748, dove lui consiglia a questo giovane, suo giovane apprendista, come deve comportarsi nella gestione del denaro e nella gestione del tempo. Ed è, se volete, una sintesi dello spirito capitalistico di utilizzo del denaro. E infatti Max Weber, che scrive un saggio importante sulla nascita del capitalismo, lo riporta questo passaggio, perché dice che questa è una sintesi efficace, no? Ricordati che il tempo è denaro, no? Chi perde tempo perde soldi, no? Chi potrebbe guadagnare 10 scellini al giorno e va a passeggio mezza giornata o fa il poltrone nella sua stanza, se anche spende solo 6 pence per i suoi piaceri, non deve contare solo quello che ha speso, ma anche quello che non ha guadagnato. Poi ricordati che il credito è denaro. Se uno lascia presso di me il denaro, il suo denaro esigibile, mi regala gli interessi o quanto io in questo tempo posso perderne, no? Eccetera, eccetera. E poi ricordati che il denaro è di sua natura fecondo e produttivo. Non bisogna lasciarlo fermo, bisogna farlo girare, bisogna utilizzarlo continuamente. No? Questo è lo spirito che sta alla base di un sistema, appunto, come quello dell'economia di mercato, che si diffonde a partire dal 300, diciamo, no? E poi diventa importante qua negli Stati Uniti, è veramente una forza dirompente, no? Che porta questo paese che, pensate, all'inizio dell'Ottocento aveva 4 milioni di abitanti, era un paese essenzialmente agricolo, a diventare alla fine dell'Ottocento un paese da 100 milioni di abitanti, il paese più forte del mondo dal punto di vista industriale, in un secolo solo. No? Ecco, dietro c'è anche questo spirito, questa idea qui di utilizzo del denaro, con tutti i lati positivi ovviamente e negativi che la cosa aveva. Il credito è utile, il credito serve non soltanto ai capitalisti, non soltanto a chi è attivo nel mondo della finanza e della produzione, ma serve anche alle persone che ogni tanto si trovano in una situazione di difficoltà e devono avere un ponte, no, per superare queste situazioni. E questa è una cosa che era presente anche nel passato e costituiva di per sé un problema politico, perché molto spesso situazioni di indebitamento portavano all'impossibilità per i soggetti, soprattutto chi faceva parte dei ceti popolari, di ripagare i debiti. E all'epoca questo era un problema, perché esisteva la prigione per debiti, esisteva la schiavitù per debiti. No? E quando le cose andavano male in un'economia, molto spesso chi aveva contratto un debito non riusciva a ripagarlo. E questo diventava un'emergenza sociale vera e propria. E quindi non sorprende che le religioni, che sono degli strumenti non soltanto che ci legano a una dimensione ultraterrena, eccetera, ma anche degli strumenti di coesione sociale, se vogliamo, in qualche modo, avevano letto questo problema. Il divieto dell'usura, e quindi il divieto della concessione, no, di prestiti con tassi di interesse molto alti, è qualcosa che mira proprio ad evitare quel disagio sociale, quei conflitti che vengono creati da questa cosa. E quindi troviamo nella teologia cristiana, ma anche in quella islamica, per esempio, una lunghissima serie di citazioni, di studi, di analisi sulla moneta. Sembra un po' paradossale, ma in realtà molti dei concetti economici che utilizziamo noi oggi nascono dalla riflessione teologica. Moltissimi vengono sviluppati dai francescani. Noi associamo i francescani a un'idea di povertà, di semplicità, eccetera. Ma in realtà la riflessione che loro fanno sulla dimensione della povertà, sui rischi legati all'indebitamento, eccetera, sono delle riflessioni importantissime che hanno fondato in parte importante il pensiero economico come lo concepiamo noi oggi. Quindi troviamo vari aspetti, li troviamo nell'Antico Testamento, dove c'è questa cosa interessante, no? Per l'Antico Testamento era vietato agli ebrei fare prestito a interessi ad altri ebrei, si poteva fare ad altri che non fossero ebrei, lì sì, andava bene, lì si poteva fare. E nel Nuovo Testamento troviamo molti passi nel Vangelo in cui si parla di questa cosa, no? C'è il passaggio di Luca 6, per esempio: se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito avete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per ricevere altrettanto, eccetera, eccetera. Però anche nel Vangelo ci sono aspetti diversi, perché poi c'è la parabola dei talenti anche, no? La parabola dei talenti, se lo ricordate, il padrone assegna, no, a ognuno dei suoi servi una moneta. E c'è uno che la investe e ottiene 10, uno che la investe e ottiene 5, e l'altro che la nasconde sotto il sasso. E quello che la nasconde sotto il sasso, insomma, viene punito alla fine dal padrone che torna perché non ha utilizzato bene la sua moneta. C'è quindi questa attenzione da parte, no, della riflessione teologica, perché si rende conto del pericolo che è insito in una situazione come questa, in cui c'è una simmetria ovviamente tra chi presta, che sono quelli potenti all'interno della società, no, in una società fortemente polarizzata come quella dell'epoca, e chi invece si trova in una situazione di difficoltà. E quindi ci sono tutta una serie di misure che la Chiesa porta avanti di divieto espresso del prestito a interesse. Questo non vuol dire però che il prestito non avvenisse lo stesso, insomma ci si arrabattava in qualche modo, si cercava di farlo con tassi di interesse basso in modo o in modo mascherato, però in realtà quello che emerge è che i prestiti servono, che la gente li chiede, che vengono utilizzati e che quindi divieti troppo rigidi non servono a niente, perché dal basso parte comunque una richiesta di questo tipo di servizio. Prego. Esattamente. Sì, funzionava così. Uno porta. Allora, il problema era che garanzia posso dare io, no, per ottenere un prestito. Se sono appunto un uomo o una donna del popolo, non ne ho di garanzie che posso dare, non ho un immobile su cui fare un'ipoteca. E allora cosa succedeva? I francescani capiscono questo problema, fanno i Monti di Pietà. I Monti di Pietà io posso portare qualunque cosa, posso portare. Io ho studiato il Monte di Pietà di Trento, per esempio, e c'è l'elenco degli oggetti che venivano portati. Gli oggetti che venivano portati erano tipicamente quelli di casa. Si portavano le lenzuola della dote, si portava il paiolo di rame, lo schioppo, no? E per ognuno c'era un valore che veniva dato e poi nel momento in cui si riusciva si tornava e si riprendeva l'oggetto. Ovviamente gli interessi che venivano fatti, il trattamento era un trattamento di favore, non era quello che era vigente sul mercato. Ma dovete capire che all'epoca non c'erano istituzioni creditizie che consentissero, no, alle persone normali di accedere a queste risorse. Per farlo dovevo rivolgermi al credito privato, che però era estremamente costoso ed era comunque in una situazione di asimmetria, no? Tra chi prestava molto forte, tra chi prestava e chi riceveva. Ma il fatto che il credito fosse importante all'interno della società era evidente ed emerge. E infatti i francescani stessi a un certo punto dicono: guardate, il credito serve, il profitto è giustificato in realtà, se non è eccessivo, perché il profitto del mercante, per esempio, come dice qua Pietro di Giovanni Ulivi, che era un pensatore, tra l'altro, che faceva parte del ramo spirituale dei francescani, quello più a sinistra, per utilizzare le categorie di oggi, no? Se vogliamo, lui stesso dice: guardate che in realtà il profitto è giustificato, perché chi fa profitti in realtà spesso, molto spesso, fa anche un servizio per la comunità. Qui lo fa, ne parla lui parlando dei mercanti, no? Dice: ma i mercanti fanno un servizio per la comunità perché hanno il coraggio di prendere le cose, di affrontare viaggi pericolosi in terre sconosciute per andare a portare le cose che noi abbiamo in eccesso e a comprare invece le cose che a noi mancano. E questa è una cosa che solo in pochi sanno e possono fare. E quindi per il fatto che si assumono questo rischio, il profitto è giustificato. E questo lo dice un francescano. E poi troviamo, no, ovviamente quest'idea, no, è un'idea che cambia nel tempo, no? Vi dicevo, la condanna del prestito, dell'usura, dura fino al Settecento formalmente nella Chiesa, ma comincia appunto a perdere di durezza, anche perché cominciano anche a esserci degli strumenti che consentono di accedere al credito in misura molto più corretta e meno oppressiva. Calvino nella Riforma protestante, questo è uno dei punti forti, no? Protestanti portano avanti, i calvinisti in particolare, l'idea che questa questione della condanna dell'usura non sia più necessaria nei termini in cui veniva fatta. Infatti si diffonde anche questo filone appunto delle religioni riformate in area a forte presenza mercantile. E troviamo qualcosa d'analogo anche nella teologia islamica, dove c'è una condanna esplicita dell'usura e non del commercio, come viene detto, ma dell'usura sì. E questo vale ancora oggi la finanza islamica è estremamente attenta per tutte le questioni che riguardano i prestiti, ma anche per le questioni che riguardano gli investimenti. C'è tutta una serie di investimenti che vengono classificati sulla base di categorie di moralità, per esempio. Le banche islamiche non possono investire in armi, teoricamente. Poi i giri sono lunghi, alla fine i soldi da qualche parte arrivano comunque, no? Però ci sono delle regole che sono legate anche qua, e c'è l'obbligo dell'elemosina e tutti gli altri aspetti che appunto servono per la costruzione di questi circuiti di fiducia sociale. Ora, i crediti hanno dunque una funzione importante, lo hanno dal punto di vista dello sviluppo economico, delle attività più sofisticate, se volete lo hanno anche per la vita delle persone più semplici. Però chiaramente ogni negozio di credito è un negozio che implica un rischio. No, i rischi ci sono, perché io concedo i soldi a prestito, ma non sono sicuro che mi ripagheranno. E a volte il mancato pagamento crea veramente dei crack colossali. E ce ne sono alcuni nella storia che sono stati veramente paradigmatici. Quelli più grossi sono quelli che fanno gli stati. Quando gli stati non pagano i propri debiti, è un bel disastro, perché molto spesso gli stati sono fortemente indebitati. Allora immaginatevi che domani la Meloni va in televisione e dice lo Stato italiano non ripaga più il proprio debito pubblico. Insomma, sarebbe un disastro dal punto di vista finanziario per istituti di credito, fondi pensionistici, privati cittadini, eccetera. Questa cosa è successa più volte. In passato, appunto, gli stati erano fortemente indebitati, si indebitavano perché gli stati? Perché andavano in guerra. Cioè, dovevano pagare i soldati, dovevano costruire le navi, dovevano armare la cavalleria, dovevano fare le fortezze, e per fare questo avevano bisogno di soldi. Raccogliere le tasse non era semplicissimo in passato, e quindi ci si rivolgeva a chi i soldi ce li aveva. Nel 300 chi ce l'aveva i soldi ce l'avevano gli italiani. Ce l'avevano i fiorentini, ce l'avevano i senesi, ce l'avevano i genovesi, e quindi si rivolgeva alle case mercantili italiane che, oltre a trattare in merci, trattavano anche in denaro, perché le prime banche nascono appunto in ambito mercantile. Sono le grandi case mercantili che dispongono appunto di denaro dovuto agli affari che hanno, che cominciano anche a svolgere servizio bancario. E nel 1342 Edoardo III d'Inghilterra, che si è messo in guerra con la Francia, una guerra che sarà infinita, la guerra dei 100 anni, sarà un disastro terribile, comincia a non ripagare più i suoi banchieri, che sono gli acciaiuoli, i bardi e i peruzzi, che nel giro di pochi anni, negli anni 40 del 300, falliscono. Un crack terribile a Firenze, proprio un disastro questa cosa, peggio della crisi del 1929, terribile questa cosa. Poi dopo, nel 1348, arriva la peste, così completa il giro, e i fiorentini sono contenti. Però riescono poi alla fine a tirarsi fuori. 1500, stessa cosa succede con il re di Spagna, Filippo II, re di Spagna, che ha ambizioni di egemonia in Europa, sostenute dal fatto che alle spalle c'ha l'argento che arriva dal Nuovo Mondo, no? E questo gli dà una grande forza. Si indebita fortemente con i banchieri genovesi, con i Fugger di Augusta, l'altra grande casa mercantile, però anche lui fallisce per ben tre volte, creando dei problemi. E poi negli anni 30 del Novecento abbiamo la Germania, 1932, che dichiara default. 1932, attenzione al timing, l'anno prima che Hitler salga al potere. Cioè, Hitler sale al potere anche per una condizione di forte stress economico. Lui punta su questa cosa per la sua conquista del potere. Quindi vedete come gli effetti, no, di queste situazioni di difficoltà possono essere degli effetti estremamente, estremamente importanti. Quello che cambia nel tempo, soprattutto a partire dal tardo Settecento e l'Ottocento, è che si cominciano a creare delle istituzioni che sono dedicate apposta alla soluzione del problema del credito per le classi meno abbienti. Allora, il signore nel pubblico ha già anticipato la cosa dei Monti di Pietà, giustamente, e questi li troviamo già nella seconda metà del XV secolo, no? Siamo nella seconda metà del 400, e i francescani cominciano a istituire questi Monti di Pietà, il primo ad Ascoli Piceno, poi a Perugia, poi in tantissime altre città italiane, dove appunto chi non aveva altra disponibilità portava qualcosa di casa per ottenere pochi soldi che potevano servirgli per il pagamento di una tassa o per appunto comprarsi un nuovo strumento, anticipare le sementi per la semina. E poi troviamo altre istituzioni che sono presenti oggi nel nostro panorama degli istituti di credito, che cominciano a nascere con la fine del Settecento, per esempio le casse di risparmio. Le casse di risparmio hanno come obiettivo proprio quello di promuovere il risparmio presso i ceti cittadini, i ceti popolari, come forma di previdenza per superare le situazioni di difficoltà. E non a caso le casse di risparmio vengono promosse dalle autorità politiche, dall'autorità comunale, anche come uno strumento per alleviare il disagio sociale, no? E vengono sostenute dalle istituzioni a questo punto di vista. Quindi abbiamo una prima banca ad Amburgo, e poi a Vienna nel 1819, non 91, è sbagliato lì, devo girarlo, Rovereto 1841, Bolzano 1854, vedete la nascita della nostra Sparkasse, e Trento nel 1855. Le case di risparmio agiscono soprattutto nelle città, ma la situazione forse più difficile c'erano i contadini che vivono nelle campagne, che hanno bisogno di ammodernare, no, la propria dotazione per far fronte alla crescita demografica e alla riduzione delle superfici, eccetera, eccetera. E qui intervengono le casse rurali che hanno appunto questo compito importante e che nascono, nasce nel 1848 nel Westerwald Renano ad opera di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, che è un curato di campagna e che conosce molto bene quelle che sono le situazioni di difficoltà in cui versa la popolazione rurale, e quindi promuove questa idea. Ci mettiamo insieme, tutta la popolazione garantisce per i prestiti che vengono concessi, e vengono concessi dei piccoli prestiti a tutti che consentono in qualche modo di comprarsi un attrezzo nuovo, migliorare il proprio terreno e quindi uscire da questa situazione di difficoltà. E queste istituzioni diventano anche delle istituzioni che costruiscono il capitale sociale, costruiscono la coesione all'interno della comunità. E questo vale ancora oggi, no? A lungo le casse, oggi forse un po' di meno, diciamo fino a qualche tempo fa, no? A lungo le casse rurali sono state un riferimento importante all'interno delle comunità in cui il consiglio rappresentava gli interessi di tutti. E da noi la prima è arrivata in Val Badia, a Rina, nel 1889, e anche, vedete, anche in Trentino 1892 a Quadra di Bleggio, quindi località periferiche che grazie all'azione soprattutto dei sacerdoti in questo caso sviluppano questi strumenti che poi si diffondono rapidamente perché sono in grado di soddisfare i bisogni della popolazione. Qui avrei altre cose da raccontarvi, ma me le lascio perdere perché vedo che sto tirando troppo a lungo. Però ecco, una cosa che volevo farvi vedere rapidamente è che uno dei problemi che sono connessi alla gestione del denaro, alla gestione del credito, è che dietro a questo gioco c'è anche una componente speculativa. Allora, la componente speculativa è qualcosa che fa parte in qualche modo della natura umana. Oggi ci sono le neuroscienze che ci aiutano a capire questa cosa, no? Ci sono studi di neurofinanza che studiano proprio qual è il comportamento umano di fronte alla possibilità di speculazione. E noi siamo attratti dall'idea di poterci arricchire rapidamente. Questa è una cosa dalla quale tutti siamo attratti in qualche modo, e spiega anche perché giochiamo al Superenalotto, che è un gioco che dal punto di vista logico non sta in piedi. Perché se io punto un euro al Superenalotto dovrei vincere 690 milioni perché il gioco fosse equo. Invece non è così, ma le cose non stanno in questi termini. Però noi siamo attratti da questa idea, no? Di arricchirci facilmente, e questo spiega perché poi nella storia ci siano state delle bolle speculative mostruose che hanno colpito molto spesso e periodicamente i mercati europei, non soltanto europei. Beh, c'è un caso interessante, che forse la prima bolla speculativa che c'è stata nella storia, che è quella, la bolla dei tulipani che c'è in Olanda. Noi possiamo speculare su qualunque cosa, possiamo farlo sui mutui subprime, possiamo farlo sui titoli di Stato thailandesi, e nel corso del Seicento gli olandesi l'hanno fatto con i tulipani. Si compravano i bulbi di tulipano per aspettare il fiore che veniva venduto poi a un prezzo estremamente elevato. E guardate, Amsterdam 1635, per farvi vedere come, a che punto è arrivata la speculazione, la Gazzetta di Harlem diceva: oggi un contadino ha acquistato un singolo bulbo del raro tulipano viceré, che è questo qui che vedete rappresentato, pagando per esso 8 maiali, 4 buoi, 12 pecore, 2 carichi di grano, 4 carichi di segale, 2 botti di vino, 4 barili di birra, 2 barilotti di burro, 1000 libri di formaggio, un letto completo d'accessori, un calice d'argento e un vestito. Per un singolo bulbo di tulipano. Per far capire la follia, no, che aveva raggiunto questa cosa, poi chiaramente la cosa non può andare avanti. A un certo punto questo mercato crolla, lasciando morti e feriti sul campo, perché quando il mercato sale tutti veniamo presi dalla voglia di entrarci, no? Il problema grosso è che a me va bene quando le cose vanno normali, ma se vanno normalmente, no? Allora, se io ho il vicino di casa che ha la casetta con la sua Golf parcheggiata davanti e io la casetta con la mia Golf parcheggiata davanti, sono tranquillo. Ma quando il vicino di casa comincia ad avere la Porsche parcheggiata davanti, dalla Porsche esce una bionda strepitosa e io invece ho sempre la mia macchinetta lì, beh, questo comincia a crearmi qualche problema. Cioè il fatto, allora dico, ma perché lui sì e io no? No? Perché questi guadagnano così tanto in borsa e io no? E allora quello che succede, come diceva Keynes, che nel mercato entrano anche gli orfani, le vedove, anche le persone che meno attrezzate, se vogliamo, no? Dal punto di vista sia della robustezza finanziaria che della capacità. E quindi alla fine sui tulipani ci hanno investito tutti e alla fine ci hanno perso. E qua Jan Brueghel, il giovane, in questo quadro rappresenta appunto questi investitori come delle scimmie, no? Che investono sui tulipani e poi dopo falliscono clamorosamente. Ma lo stesso succede con i mutui subprime, qui c'è un incrocio micidiale di errori fatti dal punto di vista politico e dal punto di vista finanziario, che finiscono per colpire duramente l'Italia, ma non perché l'Italia fosse particolarmente esposta, no, con questi mutui immobiliari, con i titoli con i suoi mutui immobiliari, ma perché l'Italia, avendo un forte debito pubblico, non aveva gli strumenti finanziari per poter far fronte alla situazione di difficoltà che si è creata. No, questo è il vero problema del debito pubblico. Il vero problema del debito pubblico è che, vabbè, costa, no? Bisogna pagarlo e quindi la spesa per interesse è elevata, ma toglie anche flessibilità alla finanza pubblica, non consente di intervenire nelle situazioni di difficoltà. E questo voglio farvelo vedere perché è una cosa di debito che interessa a tutti noi. Questa è la storia della finanza del debito pubblico italiano, dall'unità ai giorni nostri, in proporzione al prodotto interno lordo, che è la misura che si utilizza oggi, no, per capire l'equilibrio, che viene utilizzata anche a livello europeo. Guardate, noi partiamo da un livello molto basso, che è questo nel 1861. Molto basso, ma non nullo. Cioè, lo Stato italiano, il Regno d'Italia, nasce già col debito pubblico. Com'è possibile? Perché riconosce il debito pubblico degli Stati precedenti. Lo Stato italiano decide di riconoscere. Noi nasciamo già indebitati subito, fin da subito. Ma lo fa perché? Perché sa che ha bisogno di altri soldi. E quindi se riconosce il debito pubblico appare sul mercato degli investitori come qualcuno affidabile, a cui si possono affidare nuovi soldi. E infatti l'Italia sapeva che aveva bisogno di una spesa infrastrutturale e militare importante negli anni successivi all'unità d'Italia, e quindi vedete il debito sale. Questo è un debito che però viene piazzato continuamente sull'estero, vengono comprati i titoli del debito pubblico italiano. Poi qui si riesce nel Novecento a ridurlo un po', poi arrivano le guerre ovviamente sono un disastro, il debito pubblico aumenta moltissimo, vedete dalla Prima Guerra Mondiale in poi aumenta, poi cala dopo la Prima Guerra Mondiale, poi c'è la crisi del 29, poi aumenta di nuovo la Seconda Guerra Mondiale. Poi abbiamo qua il debito che dopo la guerra è annullato, quasi annullato. Perché? Perché l'inflazione ha distrutto il valore del debito. E quindi noi abbiamo, vedete, per gli anni 50 e 60, che non a caso sono gli anni del miracolo economico, abbiamo un debito pubblico bassissimo, è un PIL che cresce molto rapidamente. Il nostro debito pubblico, quello che abbiamo oggi sulle spalle, che ci portiamo dietro, nasce tutto a partire dagli anni 70 con un'accelerazione negli anni 80. Allora, gli anni 70 sono giustificati perché è una cosa che succedeva anche negli altri stati. In Austria era uguale, in Germania era uguale, in Francia era uguale. Erano anni di inflazione, crisi petrolifera, e quindi lo Stato interveniva, per questo l'indebitamento c'era. Quello che altri paesi non hanno invece è questa impennata nel corso degli anni 80, che è un'impennata che ha delle spiegazioni politiche, essenzialmente. La spesa pubblica in questo periodo è stata utilizzata molto per alimentare il consenso, ma rispondeva in realtà anche alle aspettative che c'erano nella società, perché quella spesa è una spesa che cresce perché c'è un livello di assistenza sanitaria che altri paesi non avevano e che in precedenza non c'era, e c'è un livello di spesa pensionistica, di garanzia delle pensioni, che prima non c'era a quel livello lì e adesso c'è. Cioè è una risposta politica in parte importante, ma una risposta politica che risponde a delle esigenze che c'hanno all'interno della società, che però ci carica di un debito mostruoso. Noi, se vogliamo entrare a Maastricht, però entrare nell'Unione Europea, entrare nell'euro, dobbiamo porre un freno, e quindi questo all'inizio degli anni 90, vedete, abbiamo una riduzione del debito. Qualcuno di voi si ricorderà che a un certo punto il Presidente del Consiglio Amato di notte decide di fare un prelievo dai nostri conti correnti, no, per ristabilizzare le cose, e un pochino siamo bravi, insomma fino al 2011 riusciamo anche a ridurre, solo che qua nel 2011 scoppia appunto quella situazione di instabilità finanziaria che abbiamo visto e si torna su. E quindi noi ci portiamo dietro questo debito che oggi, no, se avete sentito recentemente Standard & Poor's ha sostanzialmente ha mantenuto la stessa valutazione economica sull'Italia, anzi con un outlook positivo, quindi in realtà si riconosce una certa capacità, no, della finanza italiana di garantire questo livello, però insomma è sempre una situazione potenzialmente pericolosa. Arriviamo alla spiegazione di quello che abbiamo scelto come simbolo per il nostro ciclo di incontri. Allora, questo qualcuno di voi l'avrà visto sicuramente, è uno dei pannelli che stanno nel soffitto di una delle stanze del palazzo mercantile. In realtà non era lì in origine, il pannello è stato fatto prima del palazzo e poi dopo è stato portato dentro, ed è l'allegoria del commercio e del diritto di cambio. In realtà è un'allegoria del credito, se volete. Allora, quali sono i personaggi che ci sono in questa rappresentazione? Da una parte vedete Mercurio. Qui c'è Mercurio, che è il dio appunto anche delle attività mercantili. Dall'altra parte c'è Crono, che è il tempo. Vedete, con le sue grandi ali, molto più grandi delle alette piccole di Mercurio. Vola rapidamente, ha in mano, qua non si vede, una fiaccola, e da questa parte ha la falce, perché è il segno del tempo, no? Il tempo è inesorabile, falcia tutto, falcia vite, non si ferma mai. Qui c'è un problema, ci sono due puttini. Un puttino ha un sacchetto, una borsa vuota, non ci sono le monete qui dentro. L'altro puttino invece ha una carta in mano. E cos'è questa carta? Questa carta è la cambiale di cui diceva lei in precedenza, cioè questo pezzo di carta che costituisce una garanzia di pagamento che verrà effettuato in un altro momento. E mi consente che cosa? Mi consente di accedere a delle risorse quando io non ce l'ho per poter svolgere l'attività che si svolgeva a Bolzano, che era quella mercantile. Perché come funzionavano le cose alle fiere di Bolzano, che erano tra il 500, possiamo dire, e la fine del 700, erano tra le fiere più importanti che c'erano in Europa, perché per Bolzano passavano gli scambi tra l'Italia, e quindi l'area mediterranea in realtà, e la Germania, arrivavano fino in Polonia, arrivavano fino ad Amsterdam e anche a Londra. Allora, come funzionava la cosa? Funzionava che i mercanti arrivavano qui, vendevano le merci e non incassavano subito i soldi, ma li avevano incassati alle fiere che avevano avuto luogo 6 mesi dopo. C'erano 4 fiere annuali a Bolzano, quindi c'era un ciclo. Allora, chi comprava poteva comprare a credito, ovviamente attraverso una cambiale che veniva firmata, prendeva le merci, andava a venderle nel paese d'origine, dopo 6 mesi tornava e ripagava. Quindi questo sistema che si autofinanziava consentiva di mantenere un flusso elevato di scambi, di commercio, e la possibilità di ottenere credito era una delle cose fondamentali che attiravano questi mercanti a Bolzano. Ecco per questa allegoria è rappresentata a Palazzo Mercantile, perché era al cuore della capacità di Bolzano di essere un centro attrattivo dal punto di vista commerciale e anche un centro in cui c'erano delle competenze specifiche per la gestione di queste lettere di cambio, che non era una roba semplicissima da gestire. E infatti ci sono nell'archivio del magistrato mercantile ci sono moltissime lettere che vengono da piazze straniere, da Augsburg, dal Belgio, dall'Italia, che chiedono consigli a Bolzano su come trattare affari cambiari, perché qui l'esperienza era stata fatta ed è un'esperienza importante. E quindi la piazza di Bolzano era quotata a Londra, era quotata a Amsterdam, era quotata a Venezia, era quotata a Napoli. E di questo non si occupavano solo i mercanti, e questa è l'ultima cosa con cui vado a concludere, ma anche un personaggio storico che per Bolzano è passato e che si chiama Giacomo Casanova. Allora, Giacomo Casanova nel novembre del 1756 non ce la fa più a stare ai piombi, l'hanno messo dentro perché l'ha combinata grossa, è andato a mettere le mani dove non avrebbe dovuto metterle, ha insidiato fanciulle che non avrebbe dovuto insidiare, ha giocato con chi non avrebbe dovuto giocare, quindi l'hanno messo lì, però riesce a evadere, un po' lo lasciano forse anche evadere, così si toglie dai piedi e scappa, come vedete in quella rappresentazione qua, dai piombi. Questo è il ponte di Sospiro, insomma, no? Dove c'è, da una parte c'è il tribunale, dall'altra c'è il carcere, e passa, e la prima tappa vera che fa è Bolzano. Allora, perché Casanova si ferma a Bolzano? Voi sapete, c'è anche un bellissimo racconto di Sándor Máhory, di questo scrittore ungherese che si chiama La recita di Bolzano, che racconta questa storia. Vale la pena di leggere, è scritto veramente bene ed è un bel racconto. Beh, ma si ferma a Bolzano perché Bolzano sa che può ottenere credito. Ovviamente è scappato dalla prigione, di soldi non ne ha molti, ha estorto un po' di soldi in Valsugana. Però i soldi gli servono. Perché gli servono i soldi? Beh, la cosa fondamentale, mi servono perché devo vestirmi. No? Casanova ovviamente non sopportava andare in giro con i vestiti che aveva in prigione, doveva rivestirsi, doveva noleggiare la carrozza, eccetera. E allora può farlo perché ha una lettera di cambio che gli consente di ritirare dei soldi presso il vecchio banchiere chiamato Menck, scrive lui nelle sue memorie, che in realtà era Georg Anton Menz, che era effettivamente il più grande banchiere, mercante banchiere di Bolzano. E lui quindi a Bolzano prende questi prestiti, si riveste, va sotto i portici a fare la spesa, no? Quindi, allora, sotto i portici trova sicuramente i migliori tessuti d'Europa, perché nelle cantine dei portici sono i depositi dei mercanti. Sarti forse non erano i migliori, però almeno insomma riesce a rivestirsi dignitosamente. Poi a Bolzano ci sta poco, perché il suo obiettivo è Parigi, ovviamente, quindi lui punta ben altro palcoscenico, però può appunto fermarsi a Bolzano per sfruttare questa possibilità di ottenere credito in questa città. Ah, questa è una buona domanda. Allora, noi abbiamo trovato nelle registrazioni contabili di Menz, abbiamo trovato la spesa. Abbiamo trovato una lettera di sollecito che Menz manda a Monaco. E poi a Monaco, nelle sue memorie, Casanova annota: ho pagato i miei debiti. E poi non troviamo più solleciti da Menz. Quindi, presumibilmente, è probabile che abbia onorato il suo debito Casanova. Allora, per concludere, moneta e credito, perché sono importanti? Sono importanti perché, ovviamente, sono degli strumenti che consentono di amplificare le capacità economiche degli individui, dei soggetti. Ci aiutano a fare gli scambi, ci aiutano anche a programmare nel futuro le attività che facciamo, da poter accedere a delle risorse che ci consentono anche di realizzare dei progetti importanti, che possono essere progetti personali, no? Mettere su casa, per esempio, oppure dei progetti imprenditoriali, oppure comprarmi anche un'automobile, eccetera. Però ovviamente sono degli strumenti che hanno dei rischi insiti, che sono legati al fatto che io devo fare comunque delle previsioni sul futuro, e il fatto che spesso questi strumenti vengono maneggiati con una non adeguata consapevolezza di quello che implicano. Oggi abbiamo tante istituzioni che aiutano in realtà a risolvere i problemi che nascono dalla gestione di questi crediti. Le istituzioni che ci sono, le istituzioni bancarie, sono istituzioni che operano oggi con dei criteri di trasparenza, generalmente di trasparenza e di correttezza molto elevati. Io ho la possibilità poi anche di rivolgermi a delle figure istituzionali che si occupano anche della risoluzione dei conflitti che nascono, no, tra privati e istituzioni creditizie. E poi ci sono appunto anche iniziative meritorie che aiutano anche chi si dovesse trovare in una situazione di difficoltà e non poter ripagare i debiti che ha contratto. Questa è una condizione molto più diffusa di quanto noi possiamo immaginare, no? Quella di, anche in una realtà ricca come la nostra. E nella società contemporanea questa situazione è una situazione che viene vissuta spesso con una certa vergogna. E la cosa che colpisce è invece che, se noi andiamo a vedere in una società altamente sofisticata dal punto di vista economico, come quella dei mercanti internazionali che frequentavano le fiere di Bolzano, il fallimento non era visto come una vergogna. Il fallimento era visto come qualcosa che era un rischio che tutti i mercanti potevano correre. E infatti, quando qualche grosso mercante falliva, e questo succedeva spesso, regolarmente, tutti gli altri cercavano di risolvere la situazione. E il mercante fallito molto spesso lo ritrovavamo qualche anno dopo tornare a fare i suoi affari, magari tornando ad avere successo, perché l'idea che le cose potessero andare male era qualcosa che aveva a che fare con la vita quotidiana dei mercanti dell'epoca. Bene, grazie per l'attenzione. Sì, in parte sì, in parte è anche vero che ci sono maggiori possibilità rispetto a quello che c'era un tempo. Gli strumenti sono maggiori e questo consente in qualche modo di una volta era molto più difficile in realtà riuscire ad accedere a crediti che potessero soddisfare bisogni specifici. Oggi c'è molta più possibilità di farlo, però è vero che questi strumenti sono anche strumenti complicati che non sempre si possono leggere. La cosa che mi ha detto lei mi fa ricordare che io da piccolo avevo una piccola scatolina di metallo, la Musina, con sopra la targhetta della cassa di risparmio che mi era stata data, in cui mettevo dentro le monetine. Però erano gli anni 70, c'era un'inflazione bestiale, quelle monetine lì non valevano niente alla fine, però comunque serviva insomma un po' come idea, no? Quella di mettere. Sì, era onorata. Sì, ma si veniva da una realtà che è una realtà più povera prima, no? E quindi in cui c'erano meno possibilità, perché questa idea del risparmio ce la portavamo dietro ce la portavano dietro i miei nonni e i miei genitori, no, in modo diverso, perché venivano da una realtà in cui effettivamente, no, la disponibilità è una disponibilità molto minore, era un po' più difficile. Però sì, sì. Sa cosa, dipende anche dal periodo storico, perché c'è qualche esempio etico di banchieri. Amadeo Giannini, che era un banchiere, per chi non lo conosce, ha fondato Bank of Italy, che adesso è Bank of America, lui prestava a immigrati, parrucchiere. Durante il terremoto di San Francisco, quello che diceva il professore, con una stretta di mano. No, lui dava i soldi, hanno ricostruito San Francisco e poi lui non è fallito nel 29. No, però perché non è fallito nel 29 e lì c'entrano le vacanze? Non è fallito perché non era un finanziere. Perché noi abbiamo messo, la signora aveva ragione quando dice che la giornata del risparmio è diversa, perché la giornata che facciamo oggi, il mese di educazione finanziaria, ci serve per capire alcune cose. Poi le lascio fare l'intervento. Però nello schema, nel grafico che ha messo il professore prima, se avete visto, c'era il crack di Lehman Brothers, no? Il giorno prima le agenzie di rating che danno le pagelle avevano stabilito che tutta quella roba fosse la AAA. Beh, ma questa è la dimostrazione che gli economisti non capiscono niente di solito. Ma perché? Cioè, capite, adesso qui oggi il mondo è molto più complesso, vi dico, anche se scrivi per un'azienda quotata devi stare attento, perché anche il social ti il valore, però c'è questa questione. Poi è chiaro che, come il professore giustamente diceva, miracolo economico, io non lo chiamo mai miracolo economico, lo chiamo una cosa un po' diversa. Secondo me è stato grazie a Mattei che ha abbassato il costo energia e che quindi abbiamo avuto la possibilità di produrre a costo. Però anche quel periodo lì era un periodo diverso, dove il risparmio aveva quell'idea, cioè c'era quell'idea che diceva la signora. Oggi forse noi abbiamo più strumenti, come dice il professore, però molto spesso ci facciamo inebriare, sempre il professore ha detto, dal guadagno facile. E su YouTube, l'esempio che hai fatto tu, sì, sì. C'è, perché ti fanno vedere nel trading... Cos'è che, perché imbrogliano? Vi fanno vedere quanto hanno guadagnato, ma mai il capitale iniziale. Quindi se il capitale iniziale è stato molto elevato, ok, ho guadagnato, è come chi vince al gratta e vinci, no? Ma io l'ultimo mese ho vinto 10.000 euro, sì, ma quanti gratta e vinci ci hai bruciato dietro? Quindi dobbiamo sempre stare su questa, comunque ha ragione da quel punto di vista. Infatti sì. Quello che ha detto il professore si va ben... Guadagno facile, spesa. Esatto. C'era... Poi ogni tanto questi youtuber spariscono da YouTube, no? E allora uno dice, vabbè... Gli arresti. Prego. No, la questione fondamentale è che il mercante prestava ad altri mercanti e quindi giocavano lo stesso gioco, con le stesse regole. E c'è una simmetria tra i soggetti in gioco, siamo sullo stesso piano, no? Mentre invece chi concedeva prestiti da una posizione di forza a persone che si trovano in una situazione di difficoltà, chiaramente giocava un gioco diverso. E su quello che c'è la condanna. Quello che fanno i mercanti tra di loro va bene, perché sono le loro regole, sanno i rischi che corrono, e le cose funzionano e servono anche a tenere in piedi tutto il gioco, no? Mentre invece il prestito che io concedo al poveraccio che non sarà in grado di pagarlo e poi dopo vado, gli prendo la mucca, gli prendo il campo, eccetera, beh, questo è un discorso diverso. Beh, certo, anche lì è un gioco asimmetrico e pericoloso. Però... Quei banchieri lì è vero che sono falliti, ma hanno approfittato per decenni di questa posizione, perché prestare al sovrano non voleva dire soltanto riscuotere gli interessi, ma voleva dire avere dei vantaggi dal punto di vista daziario e doganale. Voleva dire, i Fugger, per il fatto che hanno prestato gli Asburgo, si sono presi le miniere di Schwarz d'argento, che erano le miniere d'argento più importanti d'Europa, e se le Johnson gestite per un po' di anni, è vero che hanno corso un rischio, ma hanno fatto anche guadagni favolosi su sta cosa, no? Quindi... Sì, ma veniva tollerato perché appunto non c'era questa situazione di rischio per le figure più deboli della società. Cioè la condanna che viene dalla religione è una condanna che viene perché il prestito usurario mette in difficoltà le persone semplici. No, allora c'è tutta una dimensione morale, se vogliamo, che ci sta sopra, ma dal punto di vista della salute sociale il vero problema era questo, no? Era il fatto che in realtà in situazioni di difficoltà economiche chi si era indebitato non riusciva più a ripagare, e c'erano delle situazioni problematiche in cui appunto uno si trovava in carcere oppure veniva ridotto in schiavitù, e questo creava allarme, no? Sì, esatto. Ma quando l'ha fatto questo discorso? a ieri. Se l'avesse fatto 2 anni fa avrebbe fatto un affare clamoroso, perché negli ultimi 2 anni l'oro ha raddoppiato. Oggi no, però è vero che c'è questa differenziale rispetto all'India, è una cosa che c'è, ma è una cosa storica, tra l'altro, questa. Infatti l'Europa nel corso del Medioevo riusciva a importare le merci dall'Oriente, soprattutto le sete, le porcellane, le spezie, eccetera, perché l'Oriente non aveva metalli preziosi, ne aveva pochi, e quindi l'Europa riusciva a esportare l'argento che aveva e grazie a questo riusciva a recepire, a prendere, no, le risorse dell'Oriente. Poi mi sa che il suo amico ultimamente ha guardato qualche giornale finanziario, perché adesso l'oro è in salita, infatti nessuno degli analisti capisce se è una crisi imminente che sta arrivando, perché di solito ci sono di solito quando va così c'è qualche problema grosso sotto, oppure se effettivamente è una speculazione. Poi bisogna anche nel suo caso il suo amico è oro fisico, poi ci serve anche l'oro non fisico, su cui molti vanno a incasinarsi sui social network convinti di comprare oro che in realtà non è oro, perché poi c'è lo speculatore, perché è quello che dicevamo prima, che valeva per i mercanti o per i piccoli, vale adesso per le persone che sono più fragili. Cioè il prestatore, quando presta un suo pari, che era il mercante, come diceva il professore, si autotutela, perché comunque anche gli altri mercanti in congrega andavano a rimetterci la pezza. Quando presta invece a dei piccoli, c'era poi un problema, perché era sproporzionato quello che chiedeva indietro. Quindi la maggioranza o finiva con tutto il requisito, oppure per debiti finivi a fare il galeotto sulle navi, piuttosto che, infatti le compagnie al tempo, i veneziani, avevano detto proprio di speculare su questo, avevano bisogno di gente a reme e quindi prestavano sapendo di non rientrare. Ma nei tempi antichi ci sono stati questi ragionamenti, anche Giulio Cesare si è fatto aumentare la taglia dai pirati, per così dopo si è comprato con la taglia il proprio esercito per far fuori i pirati e per poi aumentare. Cioè sono degli aneddoti che fanno sorridere, ma che in realtà, anche oggi noi non è che dobbiamo sorridere più di tanto, perché tra virgolette, una tribù come gli Uyuti, che è nello Yemen, con un patrimonio di 100.000 euro di armi RPG-7, quello che le trovi ovunque, tiene in scacco il 12% del commercio mondiale, e quindi ogni singolo container ti raddoppia, ti triplica il valore, perché tu devi fare un altro giro, ci sono loro, forse la nave la fermano, aumenta il valore o diminuisce, e sono una tribù, non è che siamo parlando, però sono organizzatissimi, cioè noi pensiamo che sono straorganizzati e fermano le navi perché conoscono le rotte e fanno il prezzo. Di fatto, poi lì ci sono speculatori, le assicurazioni che ci mettono il carico più alto. Ecco, il professore, vi do un'altra notizia che magari la vedete sui giornali, molto spesso ci sono anche delle monete che sono monete ma non vengono definite monete. Nello scambio internazionale c'è il TEU, che è un'unità di misura dei container, cioè le porta container vengono misurate così, i porti, si fa il calcolo del TEU, che non è altro che... TEU vale circa 40.000 dollari, fate a TEU, e poi moltiplicate quanti container ci sono sulla nave, però diminuisce o si abbassa a seconda dei pericoli che trova sulla rotta commerciale. È per quello che quando sentivate gli Houthi hanno sparato, si blocca, vi aumenta del 20%, perché la merce rimane ferma. Pensate a una filiera che fa computer, e quindi portava i chip in Europa da Taiwan, si blocca lì 2 mesi, 30% in più. Cioè, capite? Ci sono questi giochi, purtroppo anche geopolitici, che il professore è stato bravissimo, ci ha raccontato degli aneddoti storici, ma in realtà anche oggi li possiamo attualizzare. Io lei voleva fare sì, una domanda, forse c'era forse... qualcun altro che voleva fare una domanda, anch'io ho visto. Lei, signora, è l'uomo nero, è sempre uno strumento che funziona. Sì, c'erano perché... Sì, ma c'erano perché appunto non si riusciva a ottenere credito da altre fonti, no? E quindi si ricorreva a quelle quando si era disperati, pur sapendo che ci si metteva in brutte mani, no? Ci si metteva in brutte mani, certo, sì. Perché avevano il potere economico in quel periodo in Europa, ce lo avevano effettivamente le persone. Ma non è una questione di potere economico, è una questione di funzione. Esatto. Allora, quello che si diceva prima, il divieto dell'usura faceva sì che in teoria i banchieri cristiani non potevano concedere. Esatto. E allora chi lo facevano? Lo facevano fare agli ebrei, gli ebrei che invece non potevano detenere proprietà immobiliari, non potevano avere la terra. non potevano avere la terra, e in più avevano anche un altro vantaggio, che era il vantaggio della conoscenza, perché gli ebrei leggono, avevano una formazione diversa, e questo consentiva loro anche di utilizzare gli strumenti finanziari, insomma, in modo diverso. Questo spiega anche, no, questa la diffusione in realtà dei negozi bancari tra gli ebrei, i Rothschild, no? Pensiamo ai Rothschild, che appunto sono banchieri in tutta Europa. Le ferrovie europee e le ferrovie mondiali sono state costruite con i prestiti concessi dai Rothschild nei diversi paesi. Se voi andate a vedere qualunque costruzione ferroviaria nell'Ottocento, ci trovate dentro i Rothschild. Ma questa cosa nasce perché appunto gli ebrei si infilano in un buco, che è il buco creato appunto dal divieto, mentre invece loro potevano prestare i soldi ai non ebrei, no? Esatto, infatti, è certo. No, ma era un limite, nel senso che non potevano fare altre attività, no? E quindi sì. Non potevano investire, e usavano e facevano quello. Ma in realtà svolgevano un servizio che era richiesto, no? Era richiesto, tutti ricorrevano. E non era solo un servizio bancario. Se voi guardate, nell'Europa del 600 e del 700, presso le corti erano molto frequenti le presenze di operatori finanziari ebrei, che erano specializzati nel raccogliere i prestiti a favore delle corti e anche nel gestire le forniture militari. In tutte le corti tedesche, per esempio, no? Nelle mille corti tedesche, che come sapete era un patchwork di piccoli stati, c'è il Hofjude, no? che fa questo servizio, perché si portano dietro una competenza che hanno accumulato. Bene. Allora, se non ci... io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto. Ringrazio Patrick Uru per l'organizzazione, e il supporto tecnico, la Claudia Augusta, sono sempre bravissimi. E vi ricordo che quelli bravi, quelli che vi spiegano come risolvere i problemi, ci saranno fra 2 settimane con l'avvocato Maines e col dottor Morellato. Grazie.